Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sono profondamente convinto, lo ribadisco pur avendo una normalissima, regolarissima famiglia, che la famiglia sia un modello ormai obsoleto per come si sta articolando la società. Pieno rispetto, totale venerazione per l'organo costitutivo della nostra società, almeno finché non avremo delle alternative che ci diano sufficiente soddisfazione o sufficiente sicurezza di tenuta. Poi ci stiamo rendendo conto, come dice Jacques Attali, che nomino sempre, che osserva la nostra capacità di multirelazionarci, di dividerci attraverso un'infinità di livelli di relazione, che la famiglia, così come è costituita, ordinata, monocratica, indissolubile, è destinata a vita rispetto a quello che è nel momento in cui abbiamo deciso di costituirla, non serve più tanto a dare soddisfazione e soprattutto ad essere un elemento costitutivo di sufficiente stabilità nella società così come articolata. Questa mattina vi ripropongo l'idea sulla famiglia ideale. Sto seguendo su Twitter l'hashtag terremoto, perché ero indeciso all'inizio se virare velocemente e dedicare questa puntata di Melog alle notizie dello sciame sismico che ha colpito parte del nord Italia. Devo dire che i messaggi finora sono più che mai rassicuranti. Sono persone che ci scherzano su, persone che lo hanno sentito, persone che hanno sentito lievemente tremare casa loro. Lascio comunque la posta aperta di dare tutto lo spazio a tutte le informazioni e comunicazioni che il pubblico pensa di poter fare su quello che sta accadendo, che si sta cominciando a seguire in questo momento, dalle 9 in poi, e vi dico quello che invece dovrebbe essere l'argomento di oggi, quello di cui avrei voluto parlare. Allora, nella serata di ieri, a cena con alcuni amici, come sempre, ebbi un'ispirazione fulminante perché sentii la signora della coppia con cui stavo assieme che raccontava una sua cena con una famiglia ideale. Erano perfetti, carini, bellissimi, si vedeva che si amavano, una coppia stupenda, un incastro perfetto. E io dai tutta la sera a cercare di fare un interrogatorio di terzo grado per riuscire a mettere di fronte all'evidenza che dietro ogni famiglia perfetta si cela sempre dietro un baratro. Niente, non c'è stata nessuna occasione, impossibile, inattaccabile, nemmeno le mie più minime osservazioni, ma quando parlava lei lui le dava sulla voce, oppure hai notato fra loro delle piccole frizioni, oppure ogni tanto o lei o lui ricevevano dei messaggi sul telefonino. No, niente, tutto questo. E questo mi dà l'idea questa mattina che evidentemente ho una visione distorta di quella che in realtà è una realtà che nel mio pessimismo vedo molto poco, che in realtà invece è molto diffusa. Questa mattina vorrei parlare non della famiglia perfetta, quella che voi riteniate la famiglia perfetta. Guardate, non mi fermo di fronte a nessun modello. Immaginate che abbiate la grande responsabilità, per assurdo, di proporre e riproporre il nucleo essenziale della società secondo il vostro estro. Potrete dire: per me la famiglia perfetta è composta di un padre, tre mogli, un numero pari di figli, due maschi e due femmine, con suocera a disposizione per l'accudimento dei figli, con possibilità di scomparsa a tempo determinato nei momenti in cui si vuole rimanere soli. Potreste dire: per me la famiglia perfetta è fatta di un uomo e un animale da cortile. Per me potreste dire: la famiglia perfetta è fatta di un uomo anziano e una donna molto giovane, una donna di una certa età, fuori dall'età fertile, così non ha più il problema della prole, e tanti uomini giovani. Potrete dire: per me la famiglia perfetta è il modello antico, patriarcale, una famiglia fondata su tutti i suoi predecessori, in cui esista un capostipite, che è una sorta di padre spirituale di tutta la famiglia, a cui si ricorre come fosse anche colui che amministra la giustizia, da cui si ha una guida etica, da cui procedono tutti i figli, procedono le mogli dei figli, procedono i figli delle mogli dei figli, e tutti insieme costituiscono un insieme compatto e unico. Potreste dire: la famiglia perfetta per me è un grande condominio, un grande condominio in cui ci sono delle zone comuni. Le zone comuni sono le zone dell'accudimento, le zone dell'amministrazione del tempo libero, le zone dell'amministrazione del piacere, in cui ci sono le zone del dovere, in cui non esiste la famiglia, ma è tutto un insieme, come un capo del personale che settimanalmente stabilisce quelli che sono i turni di lavoro, un grande capo di condominio, sto inventando in questo momento, un grande capo di condominio decide: benissimo, domani Fabrizio Intonti conviverà con Alessandro Chiappini e Gloria Guerrera si occuperà di andare a lavorare mentre loro vanno in vacanza, qualcosa del genere. Avete l'idea di un modello di famiglia che vi appagherebbe? Siete soddisfatte la vostra? Decidete di descrivermi la vostra. Questa mattina vorrei proporre quella che è la riprogettazione della famiglia, visto che su questo senso di famiglia, la difesa della famiglia, i valori della famiglia, di solito chi difende la famiglia e i valori della famiglia sono sempre le persone che poi alle spalle hanno dei disastri nella sostanza, ma nell'apparenza sempre perfette, integerme. Non dimenticherò mai il parlamentare, grande difensore della famiglia, beccato su un terrazzino di via Veneto, sputtaneggiando, felice, ubriaco, sniffato in un via dicendo. Era uno dei più grandi tutelatori della famiglia, ma lui, come tante altre persone, poi hanno avuto mogli pazienti, apparati sociali tolleranti, che lo hanno ricollocato in un posto fittizio, poi continuare a imbracciare la propria bandiera ormai completamente stracciata, inesistente, non rappresentante più nessun esercito, del proprio modello di famiglia. Prima di criticare le famiglie esistenti, prima di criticare il diritto di famiglia conclamato, prima di criticare i difensori della famiglia, prima di criticare tutte le possibili famiglie alternative, dalle coppie di fatto alle coppie gay, alle coppie, alle triplette, le quadruplette, le cinquine, le tombole insieme, prima di criticare tutto questo, ditemi voi come la pensate. Qual è il vostro modello di famiglia ideale? 800 24 00 24. Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Tutto era in scompiglio in casa Oblonsky. La moglie aveva saputo che il marito intratteneva una relazione con la governante francese che era stata in casa loro e aveva dichiarato al marito di non poter più vivere nella stessa casa con lui. Questa situazione durava già da più di 2 giorni ed era avvertita in modo doloroso dai coniugi e da tutti i membri della famiglia, nonché dai domestici. Tutti i membri della famiglia e i domestici sentivano che la loro convivenza non aveva più senso e che persone riunite dal caso in una locanda qualsiasi erano più legate fra loro che non essi, familiari e domestici degli Oblonsky. La moglie non usciva dalle sue stanze, il marito non era in casa da più di 2 giorni. I bambini correvano abbandonati per la casa. La governante inglese aveva litigato con l'economa e scritto un biglietto a un'amica, pregandola di cercarle un nuovo posto. Il cuoco se n'era andato già il giorno prima durante il pranzo. La sguattera e il cocchiere si erano licenziati. Lev Tolstoi, Anna Karenina. L'incipit di Anna Karenina già dà l'idea di ciò che appare, ciò che in realtà è. Vedete, senza affondare l'immaginario nel profondo e sublime capacità di raccontare la realtà attraverso l'astrazione romanzesca, immagino che esistano molti modelli correnti, modelli probabilmente usurati dall'abuso che se ne è fatto nel citarli, ma modelli comunque che in qualche maniera rappresentano nella nostra società, una società misurata dalla capacità di consumare, dalla capacità di allinearsi ai modelli, dei modelli di famiglia ideale. L'uno di questi, che è il primo che viene in mente a tutti, anche se oramai fa parte di una promozione che è un po' datata nel tempo, è la famosa famiglia del Mulino Bianco. Ah, la famiglia del Mulino Bianco. Mi pare che fu Alberoni a inventarsi, il sociologo Alberoni, grande esperto di amore e passione, di amore e amicizia, a inventarsi questo modello della famiglia del Mulino Bianco, dando questa collocazione fittizia di un mulino che non esisteva, è stato costruito, ma che dava l'idea di cose buone dei tempi antichi, in cui la bambina era carina, la mamma era sorridente, il papà era sempre giovane e pimpante, in cui sembrava che il cagnolino, il gattino, la pioggia, c'era di tutto, c'è una sorta di carezzevole, fantastico, meraviglioso modello di famiglia che probabilmente da quel momento in poi, dal momento che entrò nell'immaginario di tutti, divenne il simbolo della famiglia ideale che nessuno mai aveva conosciuto, ma che tutti all'apparenza volevano mostrare. La famiglia del Mulino Bianco, grazie a Dio, è una cosa irreale al 200%. Voi ve la ricorderete la pubblicità che facevano, quella del Mulino Bianco, 7:30 di mattina, che in una famiglia è il momento in cui diventi Jason con la sega elettrica in mano e Hannibal the Cannibal. Non esiste uno che non abbia un nervoso addosso. 7:30 di mattina, prima inquadratura, sta donna che ha preparato la colazione. Colazione, c'è un tavolo di roba che neanche al matrimonio di Gigi D'Alessio ci è mai visto una roba così. Non esiste. Ci sono tutte le confessioni del Mulino Bianco, fuori i daini vivi che ti spassano la macchina, proprio il grano che cresce, sempre il sole, marroni. Te ti provi a immaginare 7:30 a che ora si è alzata sta donna, come sarà ridotta. Te le immagini vestaglia, bigodini, ciabatte? No, un pezzo di gnocca atomico. Giuseppe Giacobazzi, un comico, descrive quello che tutti abbiamo sempre pensato. Quanto dietro l'irrealtà della famiglia del Mulino Bianco esistano dei modelli difficilmente percorribili. Oddio, esisterà una percentuale minima di donne che fanno in tempo ad alzarsi la mattina con l'alba, col canto del gallo, si fanno belle, si stirano i capelli, si truccano, si mettono perfette, accendono il forno, fanno le focaccine profumate, apprecchiano la tavola con tutti i fiori, le spighe di grano, vanno fuori, danno la pappa ai daini, e accarezzano il pratino in modo che sia perfetto, e pennellano uno per uno i fiori del giardino finché scende la famiglia felice, profumata, sorridente, non vede l'ora di affondare le fauci in quelle merendine. Maria, buongiorno. Buongiorno, grazie. Io sono molto vecchia, quindi il ricordo della mia infanzia era di una famiglia allargata, non allargata come si usa adesso, allargata ai nonni, ai consuoceri. Ricordo dei Natali bellissimi in cui c'erano tutte 20-25 persone. Forse i miei ricordi sono un po' alterati proprio perché sono ricordi. Quello però che mi impressiona è che oggi non si riescono quasi più neanche alle feste, neanche a vedere i figli. Sono tutti proiettati di corsa. Chi deve partire, chi deve fare. Però Maria, negli attimi di lucidità che ancora può avere, mi dica come la vorrebbe lei? Se quello è il modello che lei pensa. Questa mia infanzia. Questa se la ricorda, questa ce l'ha già avuta. Poi, mi sembra tanto bello, era tanto bello essere così tutti assieme. Non ho capito perché adesso si è tutti soli. Ecco, perfetto. Allora, quindi il suo modello ideale è una specie di famiglia al Mulino Bianco, però allargata. In cui sì, lei era felice. Non dico così retorica come quella del Mulino Bianco, non pretendo che alla mattina si sia tutti lì. Non è del vero. Scusi Maria, quello che vorrebbe, faccia finta che è la bacchetta magica, faccia finta che io sia Dio, magari, ma non è così. Magari. E poi oggi cambio la società, basta famiglia, Adamo, Eva e figli, ricominciamo da capo. La sua fantasia, cosa la porterebbe a pensare? Ma la mia fantasia è che la famiglia dovrebbe essere un nucleo che dà gioia. Invece oggi, quando ci si trova in famiglia, si è tutti arrabbiati l'un contro l'altro. Ci si ma per dare gioia, come se la immaginerebbe? Immagini, non pensi quello che già c'è. La gioia cosa sarebbe? Potesse con la creta costruire? La gioia sarebbe quella di ritrovarsi, di che sia gioioso il quante persone invece che rabbioso, ma tutti quelli che siamo, figli, nipoti, consuoceri. Vabbè, lei è rimasta tenacemente attaccata al modello suo, non riesce a staccarsela, finché non vedrà il tunnel di luce non riuscirà a liberarsi da questo modello. Sara, eccomi. Buongiorno. Vediamo se riesce a lavorare un po' più di fantasia. Avete un'occasione per ridisegnare la famiglia, vi lamentate sempre, non descrivete quello che già avete. No, però, mentendo che sia un modello felice, perché sennò risiamo al punto da capo. No, il mio è un modello che io ritengo essere felice. Perfetto, non cambierebbe nulla. Comunque, no, beh, certo, si può sempre migliorare, questo. Allora, descriva il modello, come se fosse un modello, lo descriva. Io ho un marito e ho 4 figli, 2 maschi, 2 femmine e 2 maschi. Perfetto. Quindi già di questo io sono molto felice. Quindi il modello ideale. Il modello ideale, da prendere per esempio, è un modello di famiglia che funziona autonomamente, ossia a prescindere dai propri genitori di origine e suoceri che siano. Allora Sara, scusi un attimo, così do le direttive tecniche. Per Sara il modello ideale è maschio, femmina, con 4 figli, 2 di sesso maschile e 2 di sesso femminile, completamente autonoma e svincolata dal parentame, quindi cancellare i parenti, va bene così? Abbastanza. E cosa vorrebbe aggiungere? che cosa vorrei aggiungere? Sì. Che comunque nel quotidiano è necessario mettersi, cioè la famiglia ideale per me è quella dove moglie e marito comunicano e si mettono costantemente in discussione. Vabbè, e questo, quindi questo, hanno allora, un dialogo e hanno dei rapporti. Un marito e moglie che discutono. I figli poi vorrebbero, ne so, aiuti in casa, serve, cosa vorrebbe? Domestici? No, basta. Fate da voi, tranquilli. Facciamo da noi, basta una persona che ti aiuta a pulire la casa. Secondo me i figli vanno gestiti dai genitori. E perché non l'ha detto? Allora, scusi, sono due maschi figli, due femmine figlie, un marito e una moglie che discutono fra loro, che si mettono in discussione, è una colf. È una colf. E non serve nient'altro. Non serve nient'altro. La felicità è questo modello. Mi sta bene, Sara. 800 24 00 24. Spero che abbiate capito il metodo, essere stringato, sintetico ed esatto nella sua formulazione matematica della famiglia ideale. Adesso penso, più che sentire, che è la famiglia in sé che è insopportabile come istituzione. Questo lo dico francamente, lo penso. E perché è insopportabile? Per una ragione molto semplice che si può dire in due parole. Gli amici, le mogli, le amanti si scelgono, i parenti no. In più la famiglia è un nucleo sociale che dovrebbe essere la base della società. Al tempo stesso però è il vaso di tutte le passioni più scatenate, l'inizio della sessualità, eccetera, eccetera, eccetera, donde tabù tremendi, eccetera. Il tabù dell'incesto dà soltanto una pallida idea di come sia contraddittoria la famiglia, perché per formarla... Ognuno ha avuto le sue famiglie, questo è Alberto Moravia che parla di se stesso probabilmente, non è detto in tutte le famiglie ci debba essere il tabù da incesto, uno che ha dei genitori chiavica non gli passa nemmeno per la testa, ma nemmeno da piccolino, poi sono costruzioni che comunque fanno parte di modelli che noi in questo momento stiamo riscrivendo, quindi dovete semplicemente dirmi non qual è la vostra famiglia, quanto avete sofferto, quanto vi è piaciuta, potendo avere un foglio di carta bianca, potendo riscrivere un modello, come è stato già fatto nel passato probabilmente, siamo arrivati a questa discussa, discutibile e economisticamente rappresentata famiglia, probabilmente qualcuno l'ha pensata prima. Vediamo voi come la ripensereste. Gigliola. Eccomi qua. Il suo modello. Allora, il mio modello, secondo me... Fantasia, non dica quello che già è. No, io dico quello che per me va bene la famiglia, cioè sentirsi parte di un nucleo proprio, poi essere, condividere tutto quello che succede nella quante persone, quante persone? La famiglia è fatta di tante persone. Dica il suo modello, ma è tanto difficile, scusi. Ma non è difficile il tanto, cioè qualsiasi gruppo che si riunisce o che sia formato, sentirsi parte di questo gruppo. Allora, scusi, Gigliola, per capire il metodo, se no andiamo avanti facciamo una trasmissione melenza sulla famiglia. Lei immagina avere un foglio bianco davanti. Immagini che la vignetta del libro di lettura delle elementari, la mia famiglia, è un papà, una mamma che sta in compagnia con bambini felici, canino e gattino. Quello è un modello che già esiste. Se lei dovesse ridisegnarlo, cosa disegnerebbe? Ma intanto ci dovrebbe essere tanto amore dentro. Sì, ma amore è astratto, persone. No, non è astratto, perché produce tra sentimenti, chi? Produce figli, produce una convivenza, produce il vivere della famiglia. Però vedete che è difficile uscire dall'astratto. Allora, deve non essere. È astratto. L'aiuto. Un uomo e una donna alla base, va bene? Sì. Ideale, perfetto. Dunque, scusi un attimo, io interrompo questo. Che un uomo e una donna, che io e tu che diventi un noi, già qui bisogna entrare nel noi. Allora, se diventiamo noi, poi costruiamo insieme qualche cosa. Allora, un uomo e una donna che rinunciano alla loro individualità nel sacrificio comune di dedicarsi a un'altra persona. Ma non persona. È un sacrificio, è una condivisione. Ma è condivisione, però qualcosa si rinuncia. Quando siamo noi, sono più io. Anche perché tante volte siamo spigolosi. Ma lo rispetto, lo rispetto. È un dono d'amore. Va bene, ok. Questo già c'è. Poi figli sì o no? Certo. Quanti? Ma quelli che arrivano... Che manda al Signore. Allora siamo al modello tranquillo, normale. Lei non sta ridisegnando. Se lei potesse scegliere, quanti ne vorrebbe? Ma io anche due o tre. O due o tre? Diciamo che io ne ho avuti due. E le quindi mi è andata bene così, no? Quindi però anche nel crescere i figli bisogna essere insieme, nel darle un'educazione, essere uniti e non contrapposti. Vabbè, abbiamo capito, Giulio. Marco, vediamo se Marco è un po' più sveglio. Marco, buongiorno. Buongiorno. Mi sono spiegato, fantasia, inventare, non definire e confermare i modelli esistenti, o perlomeno se sono quelli, descriva la sua famiglia ideale. Allora, la mia femminilità, allora, innanzitutto le spiego questo. Io vengo da una famiglia che mia mamma si è trasferita a Milano giovanissima per amore con mio padre, abbiamo vissuto sempre lontani noi come figli, perché io navigo sulle navi da crociera, mio fratello in polizia, quindi siamo stati sempre lontani. Modello di famiglia ideale, oggi purtroppo non si fanno più sacrifici. Oggigiorno si dà troppo tutto per scontato. Il matrimonio quindi è visto... la sua famiglia ideale, una famiglia che sappia affrontare il sacrificio. Sicuramente, e questo se avessi un fantasmagorico foglio di carta, lo faccia. Lo faccio, disegnerei io come persona la mia futura moglie, due figli, sì. Però con un punto interrogativo, perché oggi purtroppo la situazione lavorativa e i sacrifici non si vogliono più fare. Quindi aggiunga, con lavoro sicuro per marito, moglie, ma dovrebbero lavorare entrambi o soltanto uno, i genitori? Questa è una bellissima domanda. Perché... sì, devi disegnarsela, inventi lei. Lei può avere la moglie, scusi, danzatrice del ventre, artista di lap dance, casalinga, massaia, cuoca, scelga, a libertà assoluta. Guardate che quando uno dà libertà assoluta sembra improvvisamente che nessuno se la voglia più prendere la libertà. Come la vorrebbe la moglie? Vorrei una casalinga. Una casalinga. Per lei è un lavoro, però, per lei lavorare, sì. Sì, sì, beh, perfetto. Certo, naturalmente. Aiuti in famiglia, parenti, vicini, lontani, li vorrebbe o no? Sì, sicuramente. Quanti? Ma non più di tanto. Quanti? Ma solamente una media. Uno. La media, uno o due. Cioè due nonni? Sì, due nonni. Allora, uno paterno, uno materno. Vediamo se ho capito. Uomo che lavora, moglie casalinga, due figli, con due nonni che suppliscano. Persone di servitù? Nessuna, assolutamente. Nessuna servitù. C'è la moglie che si sfianca a lei. Grazie. Mauro. Pronto? Vediamo se riesce a seguire il modello sintetico. Descriva. Allora, maschio dominante, alfa dog del gruppo, quindi con moglie... Maschio lavora? Beh, certo. No, mica è ovvio. Lui può dominare, la moglie andare a lavorare. No, potete scegliere quello che vuole. Maschio dominante, la moglie che lavora, tipo part-time o cose leggere, insegnante, cose sì. Così. E avvenente, poi dopo... avvenente la moglie o mediamente distrutta? Normale. Tanto, cioè, insomma, che il letto è l'altare del matrimonio, quindi insomma... Con possibilità di uscita di... intime d'azioni o chiuso nell'ambito matrimoniale? Può scegliere quello che vuole. No, chiuso l'ambito matrimoniale, perché poi adesso con le malattie è pericoloso, quindi... malattie, esistono anche preservativi, non è che... Ma sì, vabbè, però non si sa mai. Vabbè, allora, vabbè questo poi, è il suo modello. Così, e poi figli, e poi dopo il maschio dominante, che è insieme alla femmina che sta con lui, quando arriva a una certa età, che quindi non è più così forte, lucido, dominante, uno dei figli, il migliore... Prende il suo posto. Prende il suo posto e così via. E attraverso quale selezione, quale ordalia sceglie il figlio dominante? Come lo sceglie il figlio? Quello lo si sceglie da solo, perché più è forte, più forte. Certo, cioè, dal punto di vista come il darwinismo. E gli altri cosa fanno? Gli altri figli cosa fanno? Gli altri se non gli va bene si togliono dei coglioni e si vanno a fare una coppia dominante. Guardi che io non giudico. Il suo modello è un modello arcaico che ha funzionato per tanto tempo, quindi va benissimo. I figli cadetti vanno in cerca di fortuna o si fanno preti. Melog. La realtà condivisa. Hai più pensato a fare quella telefonata? No, potrebbe veramente ferire le mamme. Possibile che tu non sia curiosa? Ognuna delle mie mamme ha avuto un figlio, col tuo sperma. Tutte e due, diciamo. Diciamo gay. Grande, cioè, forte. Io adoro le lesbiche. Perfetto. Io ho capito, è il padre biologico e tutte quelle stronzate. Ma perché, scusa, noi non gli bastiamo? Non pensavo che avrebbero usato il mio sperma. L'avete conosciuto e va benissimo, però fine della storia. Io voglio rivederlo. Davvero? Continuo a vedere l'espressione dei miei figli sul tuo viso. Ma dai? È una famiglia non convenzionale. Una famiglia non convenzionale, guardate che la fiction, la narrativa, l'immaginario comune ha fornito un'infinità di modelli. I ragazzi stanno bene, questo è il trailer, un film in cui due lesbiche hanno un figlio, poi vanno alla ricerca, almeno una delle due, del donatore dello sperma, perché voleva riavere il padre naturale dei figli, vederlo, toccarlo, insomma il richiamo della natura anche per lei diventava impellente. Pensate alla famiglia allargata, pensate alla famiglia aperta, alla coppia aperta. Che fine hanno fatto i sessantottini? Oggi avranno tutti 70 anni, loro che hanno proclamato questa idea di improvvisa rottura del modello tradizionale. Dove stanno? Stanno tutti lì, imbacuccati con le loro mogli, con le loro compagne, con i capelli grigi, ai centri commerciali, sulle panchine, guardano la merce, vanno ai giardinetti, giocano a bocce, osservano i cantieri, gli umarels di Maso Masotti erano gli ex 78ini, 68ini, quindi hanno fatto tutte le rivoluzioni, hanno messo in discussione tutti i modelli e lì sono tornati, non ha sortito nulla. Io non voglio fare il disfattista, però basta con alternative consunte nel modello tradizionale, voglio alternative moderne, diverse, fantasiose, che nessuno mai ha pensato prima. Pensate ad avere la massima libertà, ma avere la massima libertà molte volte crea il panico. Mi sta scrivendo un ascoltatore, dice: ma dov'è la condivisione? Dov'è la condivisione? Ci sono una settantina di messaggi su Facebook di persone che propongono i loro modelli di famiglia ideale e sono tutti molto fantasiosi, tutti molto in linea con quello che chiedo. C'è chi dice: vorrei vivere con mia sorella, stiamo talmente bene, perché non ci serve nessun altro? Un altro dice: famiglia ideale purché non ci siano le suocere. Benissimo, è un po' legato alle barzellette ormai dette, ridette, trite, ritrite nel nostro immaginario, ma funziona. Ho messo anche su Twitter, se proprio volete, la citazione cyberfighetta, l'hashtag legato a questa trasmissione. Mi stanno rispondendo in tanti. Se nessuno è perfetto, nessuna famiglia è perfetta, di fatto soggettiva, come chi la compone, dice Amante 007. Poi, già ve l'ho detto all'inizio, la vera chiave, la vera condivisione, la vera realtà condivisa è quella che stiamo realizzando noi qui alla radio. In questa mattina sto chiedendo e sollecitando il pubblico a rispondermi in maniera breve, sintetica, inequivocabile, schematica, come se appunto fossero un messaggio di Twitter. Anna, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Descriva il suo modello. Allora, io vivo a Roma, sono una cittadina e vorrei un marito alpinista. Alpinista, perfetto. Sì, perché io adoro la montagna. E io musicista, anche se nella realtà studio musica e quindi mi appassiona quest'arte, e mio figlio che segue le orme del padre, vorrei vivere in un paese non troppo grande, non troppo piccolo, sulle Alpi, magari a Courmayeur, chissà. Quello è quello che vorrei davvero. Allora, Anna vuole un marito alpinista che si porti dietro in cordata il figlio alpinista e lei a valle aspetta e suona il violino, qualcosa del genere. No, pianoforte. Pianoforte, bene, pianoforte. Sì. Belle scene. Ecco, poi come allarghiamo questo modello? Così chiuso? Ogni affettività, ogni emotività, ogni pulsione racchiusa in questo terzetto? Oppure, assolutamente no, assolutamente no. Allora, gestica, no. Abbia carta bianca. Mentre il marito è in montagna a cogliere stelle alpine ho con il figlio... Ho la suocera che c'ha un'azienda vinicola. Lì a valle e ogni tanto l'aiuto anche io, cioè qualcosa che non sia cittadino, troppo terreno. Lei io la voglio, suocera voglio sotto... fuggire. Lei la suocera, ricominciamo, marito con le stelle alpine in montagna con il figlio, lei suona al piano e ogni tanto si mette sotto la botte con la suocera e vi ubriacate. Sì, più o meno. Torna al marito e vi trova ciucche sotto la botte. È un modello, lo accetto, è nuovo almeno. Elide. Pronto, buongiorno. Sono il suo Elide. Modello. Stavo ridendo per l'immagine della suocera. Beh, adesso ci dica il suo di modello. Signora ubriache. Allora, il mio modello ideale è questo. Allora, un compagno che sarebbe poi l'amante. Come? Ma bello, sportivo, attivo, che ha voglia di girare, istruito. Insomma, tutte le cose più belle. Fisso accanto a lei o soltanto a tempo determinato? A tempo fino a quando ci si sta bene insieme, quando non si sta bene insieme senza troppo innamorati. Allora un modello intercambiabile, diciamo. Esatto. Un maschio intercambiabile, poi. Un maschio intercambiabile, poi un maggiordomo. Sì. Che si occupa della casa, certo. Eccetera. E poi un cuoco. Un cuoco, perfetto. Un bravo cuoco. Poi figli se vengono. I figli con chi li fa? Col maggiordomo, il cuoco o l'amante? No, col compagno. Col compagno, benissimo. Il maggiordomo e il cuoco sono solo delle persone di famiglia, ma non... Nessun uso di intime d'azioni ancillari, no, con loro. Esatto, no, va bene. Lei quindi si accontenterebbe di un padre intercambiabile. Esatto. Che via via però gli seminerebbe dei figli con vari padri, quindi avrebbe una famiglia allargata. Ma no, magari posso fare i figli solo con uno. Solo con uno. Primo, dei figli chi si occupa? Il cuoco e il maggiordomo? Chi? Dei figli? Io. Quindi lei non lavora, disoccupata? No, io lavoro, dei figli mi occupo come tutte le donne che lavorano, vanno a scuola, vanno all'asilo nido, vanno... Poi dopo ci si arrangia. Scusi, è che entro dentro il particolare. Quindi lei l'aspetto emotivo, affettivo, relazionale con il marito, con possibilità di cambiarlo. Esatto. Cuoco e maggiordomo, diciamo, sono quei maggiordomi delle sitcom americane anni 70 che fanno tutto. Quindi li porta a scuola, li fa fare i compiti, li istruisce. Esatto. Benissimo, quindi i figli stanno a posto. Una poltrona per due, ecco, quel maggiordomo. Meraviglioso, cioè come tutti lo vorrebbero. Beh, è un bel modello però, mi fa piacere che state cominciando a selezionare e ad entrare nello specifico di quello che io vi chiedo. Roberto. Sì, buongiorno. Allora, il mio modello è casa stile Villa San Martino in località Marina, 8 figli, governante, cuoco, cameriera, nessuna problema economico e condizio sine qua non per la felicità, nessun problema di salute. C'è solo un problema, vedo. Questi figli con chi li fa? Con l'utero in affitto? Perché non l'ha descritta. Non l'ha detto. Non l'ho detto, mi scusi. No, ha detto 8 figli, golf, tutti. No, meglio che la fa con la golf, non lo so. No, con la moglie, una famiglia regolare con marito e moglie e 8 figli. 8 figli, quindi... sparpagliati, spalmati nel corso di una 15 anni più o meno. Sì, ma anche meno, eh. Tanto non ci sono problemi di salute, quindi anche in 8 anni. Va in 8 anni, quindi diciamo un'attività conigliesca. Questa moglie dopo 8 gravidanze, poveraccia, la porta in giro con la carrozzella, però va benissimo, se questo è il suo modello va bene anche a noi. Paolo? Io? Sì, Paolo. Ecco, allora il mio modello ideale praticamente sì, la questione della salute anche per me è importante. Vabbè, salute, quando c'è la salute e un paio di scarpe nuove c'è tutto, è chiaro. Ecco, infatti, poi 3 bambini. 3 figli. Io un lavoro che mi dia la stabilità economica, ma non una cosa esagerata, basta una stabilità economica e una moglie bella, bella che pensa tutto il giorno a farsi bella per quando arrivo a casa. Però un amico mio calabrese diceva alla moglie di prenderla brutta, sennò ti mette le corda. Lei ha considerato anche questo fatto? Sì, ho considerato anche questo fatto, ma la vedo in positivo. Bella e fedele, allora deve aggiungere, scusi. Sì. Se per lei è una caratteristica importante, sennò dica bella e fedele. Tanto riscrivo anche lei come voglio io, per cui... Certo, lei può dire... Le decide qualcosa. Allora vuole moglie bella e fedele, 3 figli, un lavoro tranquillo, in parvo vivere tranquillo, non le serve più di tanto, no, e la salute. Sì, a casa, vabbè. La moglie a casa, badare i figli. La moglie a casa, badare i figli, no, c'è la babysitter. Ah, l'aggiunga però, non l'ha detta. Sì, c'è la babysitter, per la casa c'è una governante. Governante. Sì, mia moglie ha molto tempo libero per farsi bella per me, ancora più bella. Quindi comunque vedo che in realtà il vero problema grosso della famiglia è l'accudimento. Se tutti avessero una persona tranquilla, fedele, fidata, che pensi ai problemi domestici, si verrebbe tutti molto meglio, diciamo la verità. Paolo l'ha detto, Andrea. Sì, non è l'accudimento. Dica lei, io dico, molti hanno detto che questa servitù perfetta risolverebbe molti problemi, ma concordo anch'io. Io invertirei il proverbio. Non 2 cuori e una capanna, ma 2 capanne e un cuore. Il cuore di chi? Il cuore è il cuore comune. Quindi una coppia molto unita, uomo e donna. Molto unita, però in 2 case diverse. Ognuno a casa sua. E quello che unisce è sicuramente però un'impresa, un'attività in comune. Non so, io faccio il designer, faccio cose artistiche. Le piacerebbe fare questo, sì. E la moglie... Lei fa la promoter, pubbliche relazioni, diciamo, quindi, vende i miei prodotti. Vediamo se ho sintetizzo bene. Un lavoro comune, quindi un'attività imprenditoriale gestita in maniera familiare, in cui si è anche soci. Due filiali di questa attività, che sono le 2 case, dove vive uno e vive l'altro... Immagino delle persone di servizio che si occupino poi dei figli, se ci devono essere. Parecchie persone, sì, diciamo tutte quelle che servono, diciamo dalla tata al cuoco, la donna delle pulizie, insomma un panorama molto vasto, da piccolo regno. Insomma. E la famiglia, quali sono i momenti di aggregazione della famiglia? Beh, nei momenti, diciamo così, i figli vengono, va bene, insomma, più vengono meglio è, bisogna avere i soldi per mantenerli. Non lasci per lei, lei può anche dire voglio essere miliardario, è fantasia. Fantasti miliardario, 2 case solo che ci fa, scusi, almeno no, 7. Beh, poi dopo prendiamo anche le case in montagna, le case al mare. Vabbè, il suo sogno di crapola, di massima libertà data dalla massima disponibilità economica. Il denaro rende abbastanza liberi quando uno ne ha abbastanza per sentirsi libero. 800 24 00 24. Melog, la realtà condivisa. Io credo che i due quando si sposano si vogliono bene, giurano, non so, di essere uniti davanti a Dio. Noi in Italia abbiamo una religione, questa religione bisogna rispettarla. Senti, e nei casi in cui a un certo punto il marito, dimenticandosi obbrobriosamente della religione, dà una coltellata a sua moglie, non sarebbe meglio evitarla? Allora questo è un matto, allora bisogna metterlo in un manicomio. Ma allora, in questo caso è la moglie, poveretta... Scusi, adesso io le do il caso. Ammetta che il marito è matto, viene messo in manicomio. La moglie cosa fa? Non avrebbe diritto di divorziare e ricostruirsi un'altra vita? No. Secondo, non lo so, secondo il cervello, l'intuizione della donna. Appunto, ma se lei non ha il divorzio non può ricostruirsi una vita. Vadi assieme a un uomo. Vuole accompagnarsi, si accompagni. Ma non con un divorzio, che il divorzio, quando ci sono dei figli, si sposano, si mette insieme un'altra volta. Vedi come è arrabbiata, satanata la vecchia. E sarà Pasolini che all'anno 65, con il film documentario Comizi d'amore, andava in giro cercando di cogliere dei barlumi di lucidità in un'Italia che era di segno ben diverso rispetto alla libera scelta di interrompere un rapporto matrimoniale qualora non ci fosse più l'armonia necessaria. Vecchi arrabbiate, c'è una regione va rispettata, chi non la rispetta un matto, va in manicomio. Oggi immaginiamo di avere un clima più disteso, nessuno deve impugnare, difendere nessun punto di vista, perché nessuno mette in dubbio e non rispetta il punto di vista di chiunque, ma vorrei semplicemente questa mattina, almeno ci ho provato, dire se ci fosse la massima fantasia, se nessuno vi giudicasse, né legge divina, né legge degli uomini, né sospetto o giudizio dei vostri simili, quale sarebbe la vostra famiglia ideale? Beh, se volessi tirare qualche prima conclusione direi: tutti vogliono i figli è una bella cosa, ma vorrebbero non occuparsene. Qualcuno che si occupa dei figli, il vero problema è questo, perché se a tutti piace avere una vita di indipendenza, di gratificazione professionale, corroborata poi da un'affettività che è il conforto, è bello avere una persona che ti vuole bene, che ti sta vicino, che comunque ti accoglie tutto, i figli che sono frutto di questa unione, frutto naturale, in realtà qualche piccolo problema lo danno. Avessimo chi si occupa dei nostri figli in maniera costante, coerente, professionale e amorosa, saremmo tutti più felici. Ma non è che in questo paese c'è un grande bisogno di lavoro, e come mai nessuno ha mai pensato di fornire delle valide risposte a questa richiesta di servizio? Mi sembra che il servizio più indispensabile alla felicità, all'armonia e anche alla produttività sarebbero delle strutture adeguate per, diciamo, non dico il parcheggio dei figli, ma trovare delle strutture perché qualcuno si occupi dei figli, perché la gran parte del lavoro dei genitori è l'accompagno quotidiano da un posto all'altro, sono le infinite attività pomeridiane, sono l'assistenza alle normali attività di studio, di lavoro, di ginnastica, di piscina e via dicendo. Certo, se qualcuno facesse questo, ci dedicheremmo in maniera molto produttiva al lavoro, al piacere, alla trasgressione, saremmo probabilmente anche migliori genitori dei nostri figli. Perché questa attività deve essere abbandonata, non so, a degli improvvisati badanti, a persone che lo fanno con lo stesso spirito con cui si portano le pecore a pascolare? Perché non ci sono strutture adeguate che allevino da questa necessaria e impellente attività, lasciando ai genitori l'aspetto essenziale, il cuore del momento di condivisione di spazio con i figli? Questa è una domanda. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca e chiamo da Roma. Io concordo con questo e con tutto quello che ho detto. La mia personale esperienza è questa: ho due figli, una moglie, tutto quello che si può desiderare, insomma, a livello non materiale ma spirituale, insomma. E siamo la famiglia del Mulino Bianco, noi viviamo tranquillamente, facciamo la colazione con tutte le cose imbandite, proprio come la famiglia del Mulino Bianco. E chi ci pensa? Chi ci pensa a prepararla? Ma noi ci dividiamo benissimo i compiti, io, mia moglie, di solito alla colazione ci penso io, due bambini che ce la chiedono. Quello che ci serve in questo momento è un po' di Luna Park, cioè un po' di smorzare questa quotidianità e di avere una famiglia Luna Park, cioè un qualcosa, una bella vincita, quello che nessuno, fino adesso non è stato detto, una bella vincita all'otto o al superalotto, quale esso sia, e spendere soldi nell'avere un acquario gigante a casa e nel pescare i pesci direttamente e cucinarli, oppure chiamare direttamente, che ne so, Cesare a dirti il telegiornale davanti con tutta la famiglia dal vivo. Qualche, cioè, botta di vita, ecco, diciamo. Astratte. No, però Luca ha colto perfettamente quella che era la mia domanda di questa mattina. Se lei potesse immaginare, dice: ho già una moglie con cui vado bene, siamo organizzati il menage tranquilli, senza frustrazioni e senza prevaricazioni. Ho i figli, vorrei la botta di vita. Ecco, vorrei Cesare a Bonamici, pensi. ognuno ha le sue botte di vita, chi viene a casa e vi legge il telegiornale davanti a voi, mentre mangiate o spaparanzato sul divano a piedi nudi, la moglie in ciabatte, i figli che fanno casini, viene lì, dice buongiorno, sono Cesare Bonamici, e comincia a leggere le notizie. Ah, fantastico. Poi questo immenso acquario in cui papà oggi aragosta, lei tac, infila la mano dentro, la tira fuori, la butta nella pentola, i figli tutti contenti, o con le canne da pesca a pescare. Beh, è un bellissimo sogno, lei ha finora quello che ha colto più in pieno il senso di quello che avevo domandato. Dite qualcosa di surreale, ma che vi renderebbe veramente felici, non le solite cose idilliache. Marco. Sì, buongiorno, dottor Nicoletti. Le donne sono scomparse improvvisamente, hanno ripreso prevalenza agli uomini, forse sopraffatte di fronte alla necessità di esprimere veramente quale sia il loro modello di famiglia ideale. Quindi io sto facendo esattamente quello che il pubblico mi porta a fare, sto dando voce agli uomini, lasciando mute e inespresse le istanze femminili in tutti questi modelli che le vedono comunque partecipanti felici a modelli maschili. Christian. No, chi sta parlando? Scusate, Marco. Sì, buongiorno, Marco. Dottor Nicoletti, sì. Buongiorno. Al contrario del fatto che lei mi sta dando libertà di fantasia, io mi richiamo al modello del falasterio, non so se lo ricordo, che ispirò alla filosofia del socialismo utopistico, di Proudhon, di Saint-Simon. Si sta bene anche questo. Ma con un'applicazione del tutto reale, molto razionale ai tempi di oggi, anche da un punto di vista di economia di scala. Che cosa penso? Penso ad una realtà di comune fra coppie di amici, per esempio, coppie omogenee che quindi hanno le stesse problematiche, sono più o meno della stessa età, vivono bene insieme, quelli che vanno a mangiare la pizza il sabato sera, per intenderci. Sì, invece che andarsela a divertirsi, organizzare una società. Ma la comune, esatto, hanno già provato tanti, non è mai stato un modello molto felice, devo dire. Si chiamava socialismo utopistico, non a caso, ma oggi si è spinti anche da esigenze di tipo economico, perché vivere in quattro case piuttosto che riammodernare, per esempio, molti stabili che sarebbero economicamente più vantaggiosi, riordinarli per una società, micro società di questo tipo, secondo me avrebbe costi. Ci sono vari tentativi. L'architetto Cucinella in Italia fece anche questa proposta, la casa da 100K, una casa in cui tutti vivono con le aree comuni, una specie di falasterio però costruito con materiali ecologici, autosufficiente, tutto. Il vero problema è che poi pesa la vicinanza delle persone a lungo andare, già ci sono delle difficoltà di tolleranza dei membri ristretti alla famiglia, avercene 50, 60, questi grandi casermoni americani nel New Jersey, i falasteri, sì, belli, ma alla fine ti viene l'angoscia, come vivere in un grande condominio a cui bisogna rendere conto a tutti. Alfredo, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Torino. Per me la famiglia ideale sarebbe con un altro uomo, che non faccia esattamente, che non abbia la stessa professione di me, e avere una casa grande dove, che lui abbia dei fratelli come ho io, e poter avere una casa grande dove ospitare tutti i nipoti. No, finalmente qualcuno ha detto, perché sembra che c'era questa grande istanza, ma nessuno ha mai detto piacerebbe fare una famiglia con una persona del mio stesso genere. È una cosa assolutamente accettabile e assolutamente degna di considerazione. Quindi Alfredo chiude il modello della famiglia ideale, per lui il modello è una famiglia di tanti fratelli, tanti uomini, in cui le donne hanno un carattere marginale. Vabbè, oggi vi ho dato libertà, non è che l'avete usata molto bene.